L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, sta chiudendo i battenti in queste ore, in questi minuti quasi potremmo dire fa la cosa giusta, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si tiene annualmente a Milano e ha come obiettivo quello di diffondere le buone pratiche di consumo e produzione. Ed è in questo contesto delle buone pratiche che il progetto Fare Raccolta, il primo sistema in Italia di raccolta differenziata non convenzionale, tra poco sentiamo perché non convenzionale, è stato scelto come uno dei progetti sostenibili più interessanti all'interno di questo concorso, diciamo così, per festeggiare i 10 anni della manifestazione. Quindi diamo buonasera a Omar Pivi, che è l'ideatore di questo progetto. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E tra poco presentiamo anche l'altro nostro ospite, per ora diciamo così lo teniamo segreto, perché prima di tutto abbiamo bisogno di capire, Pivi, che cos'è fare raccolta, che cosa praticamente è, insomma, ecco, perché è intuitivo, diciamo, dal titolo, però è un taglio specifico. Fare raccolta è composta innanzitutto da due parole determinanti per capirne il significato. La prima è fare. Fare è l'acronimo delle linee guida settoriali che seguiamo per operare: futuro, ambiente, responsabilità ed etica. Questo è un modello imprenditoriale che prevede l'utilizzo di un sistema in grado di redistribuire vantaggio a fronte di un gesto civile. Applicato alla raccolta differenziata si trasforma in fare raccolta e andiamo ad operare in questo modo. Siamo un modello di marketing non convenzionale, cioè un'attività economica non paga uno spazio ma partecipa al progetto. Mettiamo a disposizione di tutti gli esercizi commerciali una serie di strumenti, dall'ufficio stampa al portale, i social network, il materiale cartaceo, vengono inglobati all'interno del progetto e gli viene concessa l'opportunità di ricevere in cambio non dei feedback di interesse ma dei clienti in negozio. Quindi l'utente si presenta davanti alla macchina, conferisce correttamente in maniera civile i propri rifiuti, riceve del denaro, ogni pezzo vale 10 centesimi, raccolti i buoni sconto che la macchina eroga alla fine del conferimento, può decidere di soddisfare i propri bisogni all'interno del circuito di attività economiche che hanno aderito al progetto. Oltre a questo al coinvolgimento dello sviluppo commerciale, andiamo a dare valore al patrimonio dei territori nei quali ci stiamo installando, e per valore patrimoniale del territorio intendiamo il settore artistico, quello culturale, quello enogastronomico e quello artigianale, considerando questi gli elementi di creatività e di grande valore che l'Italia ha nel suo DNA. Allora, quindi, aspetti, la fermo un attimo per ricapitolare. Allora, io sono un esercizio commerciale, diciamo che sono interessata a questo progetto, quindi ospito nel mio negozio una macchina, diciamo, nella quale faccio raccolta differenziata, così? Più o meno? La posizioniamo. Sì, no, adesso poi mi dice dove, però insomma io mi rendo disponibile, diciamo, a questa cosa, e quindi la persona viene, inserisce il suo rifiuto, ottiene un buono sconto che può spendere da me o comunque in altri negozi che fanno parte dello stesso circuito, in cambio ho anche un appoggio da un punto di vista della comunicazione, della diffusione della mia esistenza sul territorio e così via. Sì, sì. Questo è il concetto di massima. Questo è il concetto di massima. Che tipo di rifiuti si differenziano? Cioè stiamo parlando di plastica, di carta, di tutto, che cosa? I materiali che è in grado di selezionare e raccogliere la tecnologia che stiamo utilizzando sono praticamente tutti. Noi partiamo su ogni territorio con un sistema che raccoglie materiale PET. Quindi plastica PET. Il PET ha una particolarità perché è al 100% recuperabile, quindi l'obiettivo è riuscire ad andare a raccogliere tutti quei materiali che sono da destinare al recupero: il PET, la carta, l'alluminio, il vetro, il sughero, l'olio esausto. Il sistema, il modello fare raccolta è applicabile a tutti i materiali. Questo anche grazie al fatto che la tecnologia, per esempio, per ricevere l'organico e dopo poche ore buttare fuori il biocompost, esiste già. Semplicemente cosa succede? Succede che questa tecnologia oggi non è utilizzata perché rappresenta un costo. Fare raccolta è il modello di ammortamento di quella tecnologia, mettendo a disposizione di quel territorio l'opportunità insieme, condividendo un'esperienza, quindi creando un vantaggio per la maggioranza, come di solito purtroppo non succede, di poter ammortizzare il costo della tecnologia e migliorare le performance, ovviamente legate in questo caso alla raccolta differenziata, quindi la multi-utility di riferimento, per esempio, se riuscisse ad avere tutti i bidoni che l'avvisano quando sono pieni, risparmierebbe domani mattina il 60% del costo della logistica, per esempio. Come dall'altra parte è interessante che in questi primi mesi di attività di fare raccolta sono state raccolte oltre 7 tonnellate di PET, distribuito oltre 5.000 euro di valore, e questo non solo va a vantaggio dell'utente, ma a vantaggio ancora una volta della multi-utility o dell'amministrazione. Perché? Perché materiale pulito, già selezionato, è un ulteriore risparmio in fase di raccolta e di cernita dei materiali stessi. No, certamente, ma si può fare questo? Nel senso, io raccolgo in questo caso il PET e poi chiamo la mia multi-utility e dico vieni a prenderlo, così? In tutti i territori dove andiamo facciamo l'accordo con la multi-utility di riferimento, quindi diamo loro gratuitamente del materiale altamente selezionato, e come ho detto prima lo facciamo partendo dal PET, perché è il materiale di più largo consumo ovunque, e lo facciamo in questo modo proprio perché vogliamo essere per loro, per le multi-utility, per l'amministrazione, un modello di ammortamento, cioè loro possono essere concretamente consci del fatto che utilizzando il modello fare raccolta possono sviluppare, capillarizzare la presenza di questi sistemi. Allora, le macchine per il PET che utilizzate al momento sono quelle di Eurven, e quindi diamo benvenuto al secondo ospite, che è Carlo Venturato, direttore commerciale di Eurven, che tra l'altro è un'azienda che qui all'altro pianeta conosciamo già, perché abbiamo già avuto occasione di parlare con il general manager di Eurven, cioè Carlo Alberto Baesso. Adesso diamo appunto benvenuto Carlo Venturato, buonasera. Buonasera a tutti. Direi che queste macchine hanno trovato il modo di esprimere la filosofia con la quale erano nate, con la quale c'erano state presentate anni fa, direi, no? Sì. Si è evoluto il nostro sistema alternativo incentivante attraverso le nostre attrezzature, che col tempo sono evolute e si sono sviluppati in veri e propri sistemi di raccolta, come le dicevo, alternativo incentivante. Ecco, questo è il lato fondamentale della macchina. Fare raccolta è un progetto che sviluppa attorno alla macchina un'idea non convenzionale di marketing, però fondamentalmente la macchina applicata al progetto Fare o ad altri progetti di raccolta incentivante e alternativa, come stiamo già facendo anche con brand importanti della distribuzione italiana, è sicuramente una risposta alternativa a quella che è la raccolta differenziata ordinaria. Io ricordo che appunto Carlo Alberto Baesso ci aveva parlato anni fa di sfide che aveva lanciato a amministrazioni comunali su questi temi. Vedo che più che altro le sfide le hanno raccolte i privati, adesso è nato anche Fare Raccolta. Le amministrazioni comunali, siete riusciti a smuoverle o no? Sì, diciamo che con il tempo anche il nostro messaggio, che era quello di generare dei sistemi alternativi di raccolta, viene raccolto sempre più spesso sia dai privati che dalle municipalizzate. Tanto è vero che abbiamo molte richieste di informazioni anche da parte delle municipalizzate, che affrontano il problema dei rifiuti sia con sistemi porta a porta che con sistemi stradali, e vedono nei nostri sistemi dei sistemi alternativi per poter comunque dare una risposta alla raccolta di qualità, perché il problema è questo: andare a intercettare direttamente tutti quei materiali che possono andare a riciclo direttamente, come fanno le nostre macchine, che selezionano e riducono di volume i rifiuti attraverso un sistema incentivante. Questo è il lato fondamentale e prezioso delle nostre attrezzature. Sicuramente. Si chiede alla gente un contributo, un'azione a fronte naturalmente di un vantaggio, sia per loro stessi, come fa Fare Raccolta, che dà un incentivo all'azione di differenziare e di raccolta, sia per le municipalizzate, che hanno naturalmente una riduzione dei costi del servizio. Volevo ricordare agli ascoltatori, magari Pivi è ancora con noi in ascolto, sì. Sì, ecco, questi circuiti sono attivi, vedevo a Riccione, Ferrara, poi Resana, provincia di Treviso, Misano Adriatico, poi si scende verso Aprilia, Roma, Bergamo, Varese sono le prossime che apriranno. Chi è interessato, come vi contatta, dove vi trova? Le attività economiche, una volta che siamo presenti sul territorio, vengono coinvolte attraverso le associazioni di categoria. E purtroppo ce lo siamo perso. Comunque, ecco, per cominciare, ce lo può riassumere lei come si può fare? Sì, allora, ci sono i siti web di riferimento per fare raccolta, è www.fareraccolta.it, dove si trovano i riferimenti e tutte le specifiche del progetto, oppure www.eurven.com, dove si trovano sia i riferimenti dell'azienda, le specifiche nostre sui prodotti da utilizzare, che i progetti attivi e che si sono sviluppati attraverso l'utilizzo delle nostre macchine, tra cui anche il progetto Fare Raccolta. Quindi la partenza, Pivi ci stava dicendo, adesso lei è tornato in ascolto, vero? Di solito voi vi collegate con un'associazione di categoria, che è quella che poi dopo sul territorio ha gli agganci, diciamo, per raggiungere tutti. Un altro, le prime 30 attività che ci servono per riuscire a partire col progetto su quel territorio. Ho fatto questo primo passo, è ovvio che comincia il lavoro vero, perché tutte le attività economiche si accorgono che se prima spendevano 1.000, 2.000, 800, 2.000 o 3.000 euro all'anno di pubblicità, oggi possono con una quota di adesione di 50 euro al mese partecipare a Fare Raccolta e avere come riscontro un cliente. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi faccio anche i complimenti ovviamente per questo riconoscimento che è arrivato nel corso di Fa la Cosa Giusta. A tutti gli ascoltatori ricordo l'altropianeta@radio24.it, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.